come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:35 minuti in questo momento. Vi ricordo i numeri per intervenire in diretta alla Zanzara fino alle 20:45-20:50 per commentare i fatti del giorno. Numero verde 800 24 00 24, sms al 349 238 6666, la Zanzara @radio24.it. Andiamo subito con i titoli del TG2. Caso Battisti, dal Brasile accuse all'Italia, ferma gli anni di piombo, demagogia da comizio, così al TG2 il ministro Frattini. Gli assassini di quegli anni trovano ancora complici compiacenti. Traffico d'organi da minori, allarmi del ministro dell'interno Maroni all'assemblea dell'Unicef, tracce anche in Italia, dati preoccupanti sui bambini extracomunitari scomparsi. 10.000 dosi, un chilo ogni giorno, dati allarmanti sul consumo di cocaina a Milano, più che a Londra, la denuncia dell'Istituto Mario Negri dopo una ricerca sulle acque reflue. Al TG2 parla uno degli anziani truffati dal pregiudicato, incastrato dalle telecamere di una banca. Decine di vittime in mezza Italia, si faceva dare denaro fingendosi amico dei figli. Arriva Ex, la nuova commedia di Fausto Brizzi, 6 episodi per raccontare le disavventure amorose con una grande squadra di attori del cinema italiano. E sentiamo anche i titoli di Studio Aperto. Ancora offese e volgarità sul caso Battisti. Il ministro della giustizia brasiliano sostiene che il terrorista agì perché in Italia c'era la dittatura e aggiunge che il nostro paese è ancora sepolto negli anni di piombo. Dura replica di Frattini, 10 domande e risposte per smascherare tutte le bugie. Clamorosa dichiarazione del ministro Maroni. Anche da noi esiste un traffico di organi di bambini. Molti segnali e un dato sconcertante. Su 1.300 minori extracomunitari arrivati a Lampedusa lo scorso anno, di 400 si sono perse le tracce. I 6 romeni accusati per lo stupro di Guidonia sono stati picchiati in carcere. La denuncia arriva da Rita Bernardini, deputata radicale che li ha incontrati a Rebibbia. Uno di loro zoppica, racconta la parlamentare. Altri 2 hanno gli occhi pesti. Barack Obama porta lo scompiglio nella vita della Casa Bianca. Arriva tardi in ufficio ma lavora la sera. Fa sparire giacca e cravatte. Preferisce riunirsi davanti ad un cocktail. Tutto l'esatto contrario dell'era Bush. Una scuola di Londra assume come insegnante di ginnastica una ballerina di lap dance. Soddisfatti gli studenti, meno i genitori che gridano allo scandalo. Ma anche in Italia vanno di moda i corsi di danza trasgressiva. Dalla lap a quella del ventre e boom di iscritti. Bene, questi principali titoli di Studio Aperto. 800 24 00 24, avete sentito prima dal primo titolo del telegiornale di Italia 1 la notizia di oggi. Ce ne sono 2 in realtà sulla vicenda di Battisti, su cui insistiamo e naturalmente vi spingiamo a scrivere all'ambasciata brasiliana, Piazza Navona 14 00 186 Roma, oppure a mandare una mail a info@ambrasile.it. Ridateci Battisti, questo è il titolo della nostra campagna. Ci sono 2 cose che sono accadute. La prima reazione di Silvio Berlusconi, che noi auspicavamo ormai da giorni, è arrivata in mattinata con una nota in cui si fa notare che l'Italia non lascerà nulla di intentato per ottenere l'estradizione di Battisti nel nostro paese. Infatti ben noto che in questi giorni il governo ha effettuato tutti i passi possibili e necessari a tale finalità, anche attraverso la presentazione di un ricorso alla Corte Suprema brasiliana, di cui si attende con fiducia l'esito. E poi Berlusconi aggiunge: il caso non deve danneggiare gli eccellenti ed amichevoli rapporti bilaterali tra Italia e Brasile in tutti i settori di reciproco interesse. Questa è la nota di Berlusconi che si presta a numerose interpretazioni. Da una parte si dice negli ambienti diplomatici, negli ambienti politici, che Berlusconi abbia voluto un po' raffreddare gli animi che si erano notevolmente scaldati e dunque per una questione di realpolitik non si possono rovinare del tutto i rapporti, abbia messo fine, diciamo, a un'escalation. C'è un'altra interpretazione per la quale Berlusconi appunto non vuole grane, questo caso lo considera in fin dei conti poco importante, dunque in ogni caso, quale che sia la risposta brasiliana la prossima settimana da parte del Tribunale Supremo, i rapporti con il Brasile non cambieranno e non si possono danneggiare gli interessi che sono notevoli dell'Italia nell'esportazione. Ci sono numerose aziende brasiliane presenti nel nostro paese. Qui ci sono 2 linee all'interno del governo, naturalmente c'è molto marketing politico, c'è molta volontà di andare sui giornali da parte di alcuni ministri, in particolare quelli dell'Alleanza Nazionale, che insistono ancora sulla partita Italia-Brasile, nonostante il fatto che il ministro Frattini, in un'intervista di questa mattina alla RAI, abbia detto chiaramente che insomma quella di Italia-Brasile è una boutade. Presenteremo i nostri atti, ci difenderemo fino all'ultimo livello di giudizio della magistratura brasiliana. Dire poi che non facciamo la partita col Brasile mi sembra una butade. Noi non è che ce l'abbiamo col popolo brasiliano, noi ce l'abbiamo con una decisione sbagliata. Noi vogliamo in Italia Battisti in prigione. Una butade, quella della partita Italia-Brasile, e dunque due registri nel governo, ripeto, per una questione di... certamente di principio. Alcuni pensano che si possa arrivare fino alle estreme conseguenze nei rapporti con il Brasile, tra i ministri e la Russia, in particolare quelli dell'Alleanza Nazionale, un po' per finire sui giornali con la questione di Italia-Brasile, ma non solo per la questione di Italia-Brasile, perché oggi sempre la Russia, non mi ricordo dove, credo che fosse in Sardegna, ha detto: non si può lasciare un terrorista assassino libero per le strade di Rio, e dunque non bisogna incoraggiare le vacanze degli italiani a Rio. Bene, Patani, non è che la meravigliosa vacanza è una grande sola? Siamo Berni e Patani, le volevo dire che probabilmente c'è stato un errore. Oh, guarda che panorama! Copacabana? Dove sta Copacabana? C'è con fretta? C'è nelle pistole? Eh? Lo so io perché è gentile a Buzzicozza. Buzzicozza? Buzzicona cozza? Ha fatto la crasi. Una crasi? Come sei scappata? Non mi sono accorto. Strano, perché di solito fanno le bolle. Ma insomma, siamo a ridicolo, diciamo la verità. Non bisogna incoraggiare le vacanze degli italiani a Rio, bisogna tornare a mettere la questione su binari di serietà, naturalmente. Non che l'idea di fare un gesto intorno alla partita non sia una cosa seria, però insomma questa delle vacanze a Rio, avete sentito un pezzo di Natale a Rio, uno dei film... dei cinepanettoni di Natale, insomma, è significativo come si arrivi addirittura a dire agli italiani: forse è meglio non andare a Rio in vacanza. 800 24 00 24. Un'altra questione importante e riguarda invece il Partito Democratico, perché cosa avevamo, vi faccio ascoltare innanzitutto cosa è successo alla Camera due giorni fa. La votazione ha avuto questo esito, sentite. Pongo in votazione la mozione Soro e altri numero 1154, su cui il governo ha espresso parere contrario. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Di cosa si trattava? Mercoledì scorso, leggo dall'Espresso Online, la Camera ha respinto una mozione che era stata presentata da esponenti del Partito Democratico, dell'Italia dei Valori e dell'UDC per far dimettere il sottosegretario all'economia Nicola Cosentino, accusato da sei pentiti, e dico sei pentiti, come ha scritto l'Espresso nelle scorse settimane, di fiancheggiare il clan camorrista dei Casalesi. Nella mozione, di cui il democratico Soro è stato primo firmatario, si ricordano le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, eccetera, eccetera. Ora, la mozione non è passata perché, naturalmente, la maggioranza di centrodestra ha difeso il sottosegretario Cosentino. La questione è molto controversa, ci sono solo le accuse di questi pentiti, quello che volete. Ma la cosa riguarda soprattutto il Partito Democratico, perché molti esponenti del Partito Democratico si sono astenuti, altri hanno preferito uscire dall'aula e non votare. Molte le assenze nelle file del Partito della Libertà, dunque del centrodestra, e se il Partito Democratico avesse votato compattamente per la sua mozione, questa avrebbe avuto ottime possibilità di passare. Anche il segretario del Partito Democratico, Walter Veltroni, era assente dal voto. Ora, il problema è molto serio, perché Veltroni sulla vicenda di Cosentino aveva fatto un'intervista, sempre all'Espresso, dicendo: Cosentino è bene che si dimetta, c'è un sottosegretario di questo governo che è stato chiamato in causa per la quinta volta da cinque pentiti differenti e non ha sentito bisogno di dare alcun chiarimento. Credo che la sua presenza in una postazione così delicata sia imbarazzante per tutto lo schieramento di maggioranza, sarebbe opportuno che facesse un passo indietro. Lo stesso Veltroni si era espresso in questo modo a proposito indirettamente di Cosentino. Tutto si può accettare, sinceramente, tranne le lezioni che vengono da chi tra le sue file è indagati per reati connessi alla mafia e alla camorra. E c'era un riferimento diretto. Eppure, al momento del voto sulle dimissioni di Cosentino, la mozione sulle dimissioni di Cosentino, mezzo Partito Democratico se l'è squagliata. 18:44:30, c'è un'agenzia che è appena arrivata sulla vicenda Battisti ancora, da parte del presidente brasiliano, è molto importante questa agenzia. Bene Berlusconi, Italia faccia ricorso. Il premier Berlusconi ha detto giusto nella nota diffusa oggi: c'è una decisione sovrana del ministro della giustizia brasiliana, allo stesso tempo l'Italia ha tutto il diritto di fare ricorso alla giustizia. Questo non significa naturalmente che la giustizia, che ci sarà giustizia e che il ricorso sarà accolto, e però È la risposta di Lula a Berlusconi. A proposito di Battisti, io voglio sempre ricordare le parole di Armando Spataro, che abbiamo intervistato l'altro giorno. Qui l'abbiamo recuperato da un'intervista di oggi, come costume della Zanzara, andare a pescare qua e là tra le cose del giorno. Ribadire un concetto essenziale, fondamentale, al di là poi di tutti i distinguo della questione giuridica, del ruolo della Francia, del ruolo del Brasile, delle parole del ministro della giustizia brasiliano di oggi, le parole di Armando Spataro su chi è Battisti. Battisti è un assassino della peggior specie, è stato condannato per 4 omicidi, ma non solo, come vedremo. In 2 di questi omicidi ha materialmente sparato, in un altro ha fatto da palo, in un altro ha partecipato alla decisione di uccidere. Non solo, Battisti è stato condannato per una notevole serie di ferimenti, le gambizzazioni le chiamavamo una volta, rapine, detenzione di armi, documenti falsi. Quindi Battisti mente, persino i suoi ex compagni, quelli che non passano normalmente come pentiti, ne ricordano l'alto profilo criminale. Questo Spataro, Carlo Bonini di Repubblica. Ciao Carlo, buonasera. Buonasera a voi, ciao Giuseppe. Allora, è inutile dire, oggi l'hai scritto ampiamente sul tuo giornale, e noi l'avevamo già ricordato nei giorni scorsi, ma è cosa ultranota, che Battisti naturalmente non è da solo. Hai fatto un elenco di 76 persone, terroristi di destra e di sinistra, che sono latitanti in tutto il mondo. Non si possono riassumere i casi perché i problemi di estradizione sono i più disparati e dipendono dagli accordi bilaterali, da tante cose. Quello che si può dire però è sicuramente che, per quello che riguarda la Francia, al di là della dottrina Mitterrand, per tanto tempo non è che abbiamo fatto tantissimo. Mi sembra addirittura che non per tutti questi casi abbiamo chiesto l'estradizione, o sbaglio? No, non sbagli, esatto. L'Italia a metà degli anni 90 fece una sorta di cernita, chiamiamola così. Sostanzialmente raggiunse un primo e poi in realtà mai rispettato dai francesi compromesso col governo Balladur, e il compromesso suonava in questo modo: va bene, non chiederemo mai i condannati, pure con sentenza definitiva, per reati associativi, ma almeno dateci gli assassini. Questo detta brutalmente. E i francesi su quello si dissero d'accordo, tanto è vero che poi a metà degli anni 90 cominciarono le richieste pressanti di estradizione per almeno 11 ex brigatisti, tra brigatisti rossi, insomma delle altre sigle, di altre sigle. In realtà i francesi, come spesso accade, quel patto lo mantennero a metà, perché le corti di giustizia francesi diedero il via libera alle estradizioni. Dopodiché, siccome in Francia l'atto finale dell'estradizione è la firma di un decreto ministeriale, che è un atto, di fatto un atto politico amministrativo, quei decreti non sono mai stati firmati. Per cui, per esempio, hai il caso della Cappelli, Roberta Cappelli, che la cui estradizione era stata determinata dalle corti francesi 14 anni fa. Sono 14 anni che manca la firma al decreto di estradizione. Eppure della Cappelli si conosce addirittura l'indirizzo esatto. Sì, la Cappelli oggi ha dato anche un'intervista a Panorama dicendo: io sono pronta ad accettare le decisioni che prenderà la Francia. Diciamo che non è complicato accettarle, visto che sono 14 anni che di fatto la Francia ha già deciso, nel senso che la Francia ha deciso di non estradarla. Di fatto, alla fine, tra la metà degli anni 90 e oggi, l'unico estradato dalla Francia poi è stato Paolo Persichetti, forse esatto, gli ascoltatori lo ricorderanno, nel 2002, tra l'altro Persichetti oggi è ammesso al regime della semilibertà. Lavora a Liberazione, scrive tranquillamente anche del caso Battisti. Esattamente. E voi ricorderete probabilmente che quando Persichetti venne estradato ci fu una rivolta della comunità dei cosiddetti rifugiati. Come rifugiati, no? Oreste Scalzone in testa. Oreste Scalzone in testa, che poi insomma adesso io so che questa cosa che sto per dire mi guadagnerà una telefonata di Scalzone domani interminabile, ma lo stesso Scalzone che poi ormai nessuno neanche più tira in ballo, ma che poi insomma si mette sempre in mezzo. Lo stesso Scalzone fece una grande polemica dicendo che non si capiva perché il povero Persichetti, visto che gli altri no, insomma. Certo. No, voglio chiederti, c'è in realtà, non dico un compromesso tra l'Italia e la Francia, però l'Italia su queste mancate estradizioni, anche se solo di queste persone, di questi 10, di queste 11, non è che poi a livello politico si insista molto. È vero che ci sono cambi di governo, i ministri della giustizia si succedono rapidamente, eccetera, però non c'è, insomma, è come se alla fine anche per noi sia un fastidio questa storia. Io ho questa sensazione. No, lo è. Non è una sensazione, io io confermo, ti confermo questa sensazione, perché tutte le volte che mi è capitato di occuparmi poi di casi specifici la sensazione è sempre questa. Io ho la sensazione anche peggiore per certi aspetti, che poi è quello che credo agli occhi delle vittime suoni terribile, e cioè che in qualche modo, per ragioni anche comprensibili, per ragioni storiche, l'Italia non ha fatto i conti con quella stagione, no? Non c'è stata riconciliazione, la lettura storica di quegli anni continua a essere non condivisa, e quindi tutti i reati commessi in quella stagione, anche i più odiosi, anche quelli in cui, diciamo così, la natura politica è più sbiadita o è addirittura, come dire, un terribile alibi a posteriori, finiscono con l'essere coperti da questa coltre, per cui Battisti può spendere nel suo processo di estradizione in Brasile la lettera del senatore a vita Francesco Cossiga e in qualche modo ottenere quasi una copertura da Cossiga, ottenere, diciamo, quarti di nobiltà da ex guerrigliero civile, da condividere con altri, diciamo, personaggi della lotta armata. Guarda Carlo, c'è una considerazione che volevo fare con te, perché oggi mi sono fatto mandare dall'amico Tullio Giannotti, che è il capo dell'agenzia ANSA a Parigi, alcune lanci di agenzia che Giannotti aveva fatto a proposito dell'uscita dal carcere di una terrorista francese, ex terrorista francese, che si chiama Ménigon, che uccise il presidente della Renault insieme ad altre persone, tra cui il suo compagno poi diventato marito, che Nathalie Ménigon, 51 anni, è stata uno dei capi di Action Direct, è uscita dopo 20 anni, parecchi passati in isolamento, con un fisico molto debilitato e segnato. In Italia ci sarebbero state rivolte, petizioni, eccetera, in Francia nulla, non muoveva più un braccio, aveva la memoria rallentata, problemi di stabilità, eccetera, eppure è stata in carcere 20 anni, nonostante i suoi avvocati facessero delle domande per farla scarcerare. La cosa più incredibile di questa vicenda è che il marito, che si chiama Gianmarco Rouillan, nell'ottobre scorso, ex leader di Action Direct, 30 anni già scontati in carcere, era uscito per semilibertà. C'è un patto che se passasse da noi, chissà che cosa direbbero. Cioè, queste persone non possono dire una parola, non possono scrivere del loro passato, non possono parlare, non possono concedere interviste. Rouillan, un patto con lo Stato, Rouillan, uscito dal carcere, ha concesso una brevissima intervista di qualche riga alla settimanale L'Express, dicendo queste parole: non ho il diritto di esprimermi su questo, ma il fatto che non mi esprima è una risposta, poiché è evidente che se sputassi su tutto quello che abbiamo fatto potrei esprimermi, ma con questo obbligo al silenzio si impedisce anche alla nostra esperienza di trarre un vero bilancio critico. 5 parole all'Express ed è tornato in carcere. No, ma guarda, questo è un argomento, tra l'altro, è un altro tema che è strettamente connesso alla riflessione che facevo prima. Hai fatto bene a ricordare questo. Io ho un'idea. La libertà, perché ognuno è libero di dire quello che vuole, c'è libertà di pensiero e di parola nel nostro paese. Poi c'è un altro aspetto, però, che è quello della dignità. Io credo che chi ha pagato il conto con la giustizia, senza entrare nel merito se le sentenze sono giuste o ingiuste, si può discutere all'infinito, esistono però, diciamo, esiste una regola, un sistema di garanzie. Chi ha pagato, diciamo, all'esito di una condanna definitiva, quindi 3 gradi di giudizio nel nostro paese, io credo che abbia diritto, dopo aver scontato la sua pena, a fare una riflessione su se stesso, il suo tempo, cosa è stato, eccetera. Perché in qualche modo ha pagato con la collettività. Io quello che trovo francamente fastidioso, intollerabile, e che chi non ha pagato, cioè chi legittimamente ha ritenuto di sottrarsi alla giustizia di questo paese, come dire, oggi si alzi su una tribuna improvvisata e discuta di ciò che è stata la storia di questo paese, del presente di questo paese, del futuro di questo paese. Io questo lo trovo un fatto, come dire, questo sì, intollerabile. Credo che sia questo un'offesa davvero alle vittime di quel tempo, che poi, insomma, come dire, restano degli innocenti ammazzati. No. Assolutamente, grazie caro Bonini. Questo per dire l'esempio di Gianmarco Rouillan e di altri terroristi di Action Direct, che la Francia, per quello che riguarda le cose avvenute sul suo territorio, non fa sconti, anzi usa la mano pesantissima. Tornati in onda con un'ultima ora, che fra poco vi dico, l'ho distratto da una notizia uscita da qualche istante su Battisti, che parla dal carcere e dice: io innocente, ecco i nomi degli assassini. Vi diremo il contenuto di questa agenzia tra pochissimo, intanto andiamo a sentire i titoli del TG3. Sul caso Battisti il presidente brasiliano Lula risponde all'inviato del TG3: Italia e Brasile sono amici, ma la sovranità va rispettata. Berlusconi, rapporti ottimi su Battisti, seguiremo la via giuridica. N chiede un segnale forte, Veltroni polemiche solo per andare sui giornali. Traffico d'organi di bambini anche in Italia. Allarme del ministro Maroni all'assemblea dell'UNICEF, i dubbi di medici ed investigatori. L'inaugurazione dell'anno giudiziario, intercettazioni e riforma, i temi del giorno, il presidente Carbone, in Italia processi più lenti che in Africa. Il vescovo Williamson si scusa per aver creato problemi al Papa, ma tace sulla Shoah, nuovo monito del Vaticano ai negazionisti. Fidel Castro attacca Obama, Guantanamo è terra cubana, andatevene, state violando il diritto internazionale. In vertiginoso aumento le clonazioni di carte di credito e di furti dei dati personali, consigli per difendersi dalle truffe. Lavoratori inglesi contro gli operai italiani impiegati in una raffineria nel Lincolnshire, si stanno portando via il lavoro. Allora, i responsabili degli omicidi per i quali è stato condannato, secondo quanto Battisti scrive in una lettera resa nota dai suoi avvocati, sarebbero quattro suoi ex compagni dei PAC, con lui condannati, mentre lui stesso sarebbe innocente. Il colpo che ferì e rese invalido il figlio del gioielliere Torreggiani, sempre secondo Battisti, sarebbe partito dall'arma del padre del ragazzo, cosa che mi sembra era già nota in realtà. Ripeto, i responsabili degli omicidi per i quali è stato condannato sarebbero quattro suoi ex compagni dei PAC con lui condannati, mentre lui stesso sarebbe innocente. Dunque gioca tutte le carte Battisti in queste ore, prima della sentenza definitiva del Tribunale Supremo, accusa i suoi ex compagni, cosa che non aveva mai fatto fino a questo momento. Sky TG24. Crolla il PIL degli Stati Uniti, Obama ammette economia disastrata. La crisi in Italia, occupazione in calo, cassa integrazione ai massimi dal 2000. Gran Bretagna, proteste contro l'arrivo di operai italiani nelle raffinerie. Battisti, il ministro brasiliano dice siete fermi agli anni di piombo, secca la replica di Frattini. Allarme della Cassazione sullo stato della giustizia, Alfano fare squadra sulle riforme. Il caso delle Febriani, il vescovo negazionista Williamson chiede scusa al Papa. Traffico di organi di minori per Maroni, prove evidenti anche in Italia. Forme ha trovato il cadavere di un 19enne scomparso da casa da 6 giorni. Doping, i calciatori contro il TAS di Losanna, partite al via con 15 minuti di ritardo. Madonna vince la battaglia legale contro l'ex marito, a lei la custodia dei due figli. Insomma, non poteva mancare un piccolissimo, in mezzo a tutte queste polemiche, un piccolissimo omaggio a Mike Francis, che ci ha accompagnato nella nostra gioventù negli anni Ottanta con Survivor, lo ricordate tutti, lo hanno ricordato anche durante il Giornale Radio, Francesco Puccioni, protagonista, ripeto, di uno straordinario periodo e di uno straordinario successo, è morto a soli 47 anni. 800 24 00 24, clamoroso dunque dal Brasile. Battisti dice io innocente, ecco i nomi degli assassini, furono i miei ex compagni dei PAC, una cosa clamorosa. Naturalmente Battisti gioca tutte le carte, ormai è troppo tardi per fare i nomi naturalmente, e poi bisogna provare se è vero. L'unica cosa certa è quella che diceva Spataro, le sentenze ormai passate, non in giudicato ma di più ultra giudicato, da diversi anni. Noi torniamo però sulla vicenda di Pietro, perché ieri abbiamo mandato in onda uno spezzone dell'intervento di Pietro, che in realtà non era l'integrale, erano due stralci messi insieme di 50 secondi, in realtà l'integrale è di 2 minuti, il concetto è lo stesso, però per correttezza mandiamo questi 2 minuti, sentirete, il concetto è assolutamente uguale. Siamo dei cittadini normali che ci permettiamo di dire a lei, signor Presidente della Repubblica, che dovrebbe essere l'arbitro, che a volte il suo giudizio ci appare poco da arbitro e poco da terzo. Lo possiamo dire o no? Noi non vogliamo fare alcun... Noi la rispettiamo, noi abbiamo un senso delle istituzioni, noi vogliamo essere tranquilli. E allora se un cittadino qui oggi ha messo un manifesto un manifesto, uno striscione, avrà diritto di mettere sto striscione senza offendere nessuno, in cui dice: Napolitano dorme, l'Italia insorge. Perché, perché gliel'hanno sequestrato? Chi ha ordinato di sequestrare questo manifesto? Perché non c'è possibilità di manifestare senza bastoni, senza nulla? Stiamo semplicemente dicendo che non siamo d'accordo sul fatto che si lasci passare il lodo Alfano, non siamo d'accordo sul fatto che si criminalizza le persone che fanno il loro dovere, non siamo d'accordo sull'oblio che le istituzioni hanno nei confronti di queste familiari delle vittime, sull'oblio, non siamo d'accordo nel vedere terroristi che vanno a fare gli insegnanti, che vanno a fare, a informare a modo loro le cose, che fanno i saputoni, e poi vediamo le vittime del terrorismo, della mafia, della criminalità, che vengono dimenticate e abbandonate a se stesse. Lo possiamo dire o no? Lo possiamo dire o no? Rispettosamente, rispettosamente, ma il rispetto è una cosa, il silenzio è un'altra. Il silenzio uccide, il silenzio è mafioso, il silenzio è un comportamento mafioso. E vabbè, insomma, qual è la differenza? Non l'ho capito. La sostanza è la stessa, si attribuisce il silenzio, qui possono esserci dei dubbi, a Napolitano, e dunque un silenzio mafioso. Io non sono nemmeno sicuro se l'abbia riferito a Napolitano, ma come sapete non è che l'esegesi dei discorsi di Pietro sia qualcosa di semplice. In realtà ci sono altri due passaggi di quel discorso che danno l'idea del personaggio e del tipo di politica che sta facendo, legittimamente, per carità. Uno è quando parla di olio di ricino, l'olio di ricino delle veline, l'olio di ricino delle veline, pensate un po', sentite. Metteremo in piedi un altro grappolo di referendum, perché vogliamo contribuire attraverso il referendum di risvegliare la coscienza civica dei cittadini, di non lasciarli nell'oblio delle veline che nuovo olio di ricino vogliono addormentare le coscienze. L'oblio del, che ha detto? L'oblio delle veline, l'olio di ricino che vuole, vabbè, insomma, una follia. Un'altra cosa è quella su, ancora su Napolitano, che secondo lui dovrebbe intervenire su questo, sentite. Si deve sapere che quando c'è un Romeo preso con le mani nel sacco la prima volta, non ci può essere la seconda volta. E per non esserci bisogna stabilire delle regole. Tutte queste cose noi chiediamo alle istituzioni. Per queste cose ci appelliamo a lei, signor Capo dello Stato. Lo faccia un discorso coraggioso. Dica che devono andare fuori dal Tempio i mercanti. Dica che devono andare fuori dal Parlamento i condannati. Lo dica! E noi l'approveremo e troverà striscioni diversi. Non si lamenti se poi trova qualcuno che vede nel silenzio una condiscendenza. Nel silenzio una condiscendenza, questo è ancora più grave nei confronti di Napolitano, se vogliamo, come posizione, per carità, legittima, come scrive oggi Fabrizio Rondolino sulla Stampa, va benissimo, la politica, la democrazia è fatta anche di grandi provocazioni, si può provocare anche il Presidente della Repubblica, però poi non ci si deve nascondere dicendo che non lo si è fatto e si parlava di tutt'altro. 800 24 00 24, insomma, è il momento dei nanetti che si ribellano altri, nuovi, oggi, all'ipotesi del grande accordo tra Veltroni e Berlusconi, il Veltronellum secondo il Riformista, grande accordo sulla legge elettorale, sulla RAI e su altre cose. I nanetti. Ma siete dei nanetti! Una legge che qualcuno giustamente ha definito salva Veltroni. Non si può cambiare le regole del gioco a partita iniziata. Il Presidente del Consiglio dà una mano a Veltroni per distruggere la sinistra. Va denunciato questo scandalo. Questo scandalo, dunque, distruggere la sinistra. La sinistra sotto il 4% se la prende con il PD, mentre i due grandi già preparano gli organigrammi televisivi. Derby, Calabrese e Petruccioli. Questo scrive il Riformista. Insomma, in arrivo anche l'accordo sulla RAI, addirittura forse sulla par condicio. 19:26, un altro ascoltatore, Marcello, montare un discorso, guardi, non abbiamo montato nessun discorso, abbiamo tirato fuori un pezzo mandato dai telegiornali, addirittura forse dal TG3 o dal TG1, non so, non abbiamo montato nulla, il senso è esattamente lo stesso, e mi fa specie che i fan di Pietro, che sono insomma, che non fanno troppe distinzioni tra indagati, accusati, adesso stanno lì a guardare i minutaggi dell'intervento di Di Pietro, si riferiva a Napolitano un minuto dopo, 30 secondi dopo, tutto ciò è assurdo. La Salerno-Reggio Calabria, il buco nero d'Italia, continua a essere uno dei buchi neri d'Italia, interrotta in più punti, ci vorrebbe una grande mobilitazione sulla Salerno-Reggio Calabria. Sentite questo servizio. Le precipitazioni non danno tregua alla Calabria, continuano le frane e gli smottamenti in tutta la regione ed aumentano i disagi per la chiusura in diversi punti di circa 60 km della Salerno-Reggio Calabria. Automobilisti e camionisti sono costretti a percorrere la strada statale ionica in tilt già da più di 24 ore. Siamo tutti isolati, ogni paese è isolato per le frane. Se succede un'emergenza qua non si sa come fare. Non riuscite a consegnare le merci? Il furgone è fermo là, è tutto fermo, isolato. Strade provinciali ed autostrade bloccate per la caduta di fango ed enormi massi dai costoni di queste montagne. Scilla, Villa San Giovanni, Rosarno sono solo alcuni degli svincoli chiusi ai mezzi. Da 5 giorni ininterrottamente uomini dell'ANAS e della Polizia Stradale sono al lavoro per la sicurezza degli automobilisti. Qui siamo in uno dei diversi punti chiusi al traffico della Salerno-Reggio Calabria. Dopo aver incontrato sindaci e prefetti delle decine di comuni colpiti dal maltempo, ieri sera il capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, ha rassicurato le popolazioni locali, garantendo il massimo impegno del governo per affrontare questa emergenza che ha colpito. Bene, chiamateci dalla Salerno-Reggio Calabria, voi che siete impelagati, camionisti, automobilisti, in quell'inferno. Chiamateci in questa serata fino alle 20.45, sono appena le 19.28, andiamo a sentire che cosa. Il Partito Democratico che incredibilmente, dopo aver detto che il sottosegretario all'economia Cosentino è una sorta di, insomma, di mezzo criminale, perché accusato da 5, 6, 7 pentiti, adesso non ricordo, di collusione con la Camorra, si deve dimettere, lo ha salvato in Parlamento in questo modo. Pongo in votazione la mozione Soro e altri numero 1154, su cui il governo ha espresso parere contrario. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Se fossero stati presenti tutti i deputati del Partito Democratico dopo che Beltroni aveva detto Cosentino è bene che si dimetta, con le assenze del PDL, Cosentino non so se si sarebbe dimesso, ma c'era una mozione per le dimissioni, non erano automatiche, però sarebbe stata una presa di posizione forte, a prescindere dal fatto che la si pensi per le dimissioni, sia per le dimissioni oppure perché Cosentino rimanga, dal punto di vista politico non si può gridare alle dimissioni e poi non far presentare tutti i deputati alla Camera. Lo stesso Veltroni era assente. Un ascoltatore, Mauro, mi scrive: lei è fazioso eppure servile. La ringrazio, Mauro, ma insomma sono abituato. Di Pietro folle, non l'ho mai sentita definire folle Berlusconi, eppure di follie ne dice continuamente. Naturalmente non ho detto che Di Pietro è folle, ma sono follie quelle dell'oro di ricino e delle veline. È evidente che sono follie, ma insomma, se non lo si riconosce non c'è discussione. Non sono ragionamenti, questo dico. E poi altri messaggi ancora di questo tono. Andrea Dalla Spezia, eccoci qui. Buonasera. Buonasera. Volevo intervenire per quanto riguarda la vicenda della, mi sembra sia una deputata dei radicali che è andata a trovare gli stupratori rumeni in carcere. Sì, due in realtà, Sergio D'Elia e la Bernardini. Sì, ora io vorrei dire, forse anche demagogicamente, la prima frase che mi viene in mente sarebbe quella: se non avevano altro da fare. Meno demagogicamente la trovo una cosa abbastanza brutta farsi. Io la vedo un po' come un avvoltoio che si fa pubblicità su queste cose. Mi spiego. Per quanto riguarda i trattamenti in carcere, sicuramente avvengono ogni giorno, anche verso dei piccoli malfattori, e nessuno ne parla. Ora, prendere a pretesto per farsi un po' di pubblicità il trattamento riservato a questi quattro, che non definisco nemmeno delinquenti, ma definisco animali, facendo un torto agli animali sicuramente, la trovo veramente squallido. Io credo che il paese abbia bisogno di altre cose e non delle visite guidate agli stupratori rumeni. Guardi Andrea, sì, no, ma io rispetto quello che dice lei, ma non sono d'accordo, mi perdoni. Naturalmente... C'è un'abitudine in Italia, che è quella che molti parlamentari hanno, di andare a trovare in carcere. Alcuni lo fanno anche con persone sconosciute, altri lo fanno per quello che riguarda i casi più eclatanti. Direi che si tratta di un controllo che un parlamentare esercita sulla situazione carceraria. Non mi sembra che ci sia niente di scandaloso. Due parlamentari radicali sono andati a trovare, a visitare il posto, a trovare, mettetela come volete, i ragazzi romeni, i romeni protagonisti di questo episodio, gli stupratori, alcuni li ha confessi, e hanno visto che forse sono stati picchiati, avevano anche delle chimosi, eccetera. Non so se questa cosa è confermata o non è confermata. Io spero semplicemente che prima siano andati a trovare anche la ragazza stuprata, a vedere che forse delle chimosi le aveva pure lei. No, ma guardi Andrea, questo non lo deve dire, io lo dico a loro naturalmente, e tramite la nostra radio lei lo sta dicendo. Secondo lei dovevano prima andare a trovare la ragazza e poi gli stupratori in carcere. Io non credo che siano andati in carcere per dare solidarietà agli stupratori romeni, Andrea, sinceramente. Sono andati in carcere perché così fanno diversi parlamentari, per vedere come sono trattate queste persone, anche le peggiori bestie, come lei li ha chiamati. Credo che abbiano diritto a stare in carcere senza essere picchiati, però, Andrea, o no? Questo sì, però voglio dire, nella scala di impegni di un parlamentare, forse... Questo auguro... viene dopo, dice lei. Temo di sì. La ringrazio per questo intervento. Andiamo a Lucca, Riccardo. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Ascolti, ho seguito le trasmissioni di quando lei parlava con il dottor Costanzo, l'altra volta, un tempo prima di quando parlava, non mi ricordo come si chiama la signora che aveva 3 anni, mi sembra, gli uccisero il padre. Per quanto riguarda, in questo caso mi riferisco a Battisti, no? Sono concorde con il farlo rientrare, però le faccio una domanda: per quanto tempo dopo il signor Battisti sarà in galera? Nel senso, quello che mi preoccupa a me è: mi rendo conto oggi che chi uccide, chi è mafioso, queste persone qui vengono condannate e poi, grazie alla nostra giustizia, dopo magari danno 25-30 anni, oppure danno anche l'ergastolo, e poi dopo 5, cioè sono molto ottimista, dopo 5 anni queste persone, per buona condotta o perché si pentono, vengono o lasciate a casa agli arresti domiciliari, riescono a scappare, oppure li lasciano liberi. Sì, naturalmente allora, non si può generalizzare, però la nostra giustizia è certamente molto permissiva da questo punto di vista. E lo sa che cos'è? Parlando anche con degli amici che ho nei carabinieri, così, quello che mi preoccupa e che mi dispiace è che tutti i giorni questi ragazzi che sono giovani militari, carabinieri o anche proprio carabinieri non militari, rincorrono italiani, rumeni, extracomunitari che spacciano o che magari hanno stuprato e rischiano la vita tutti i giorni sulle strade, e dopo il processo tempo zero li sono fuori. Quindi secondo me bisognerebbe far entrare Battisti, ma allo stesso tempo cercare di migliorare la nostra giustizia, soprattutto quando ci sono delle condanne molto forti, tra cui omicidi, stupri. E ricollegandomi al vostro servizio, non lo sapevo, di Maroni, che dice su 1320 bambini sbarcati 400 si perdono notizie, anche qui bisognerebbe metterci un attimino la mano sulla coscienza e capire bene, andare fino in fondo dove sono finiti e come hanno fatto a sparire, perché secondo me dietro c'è qualcosa di molto grosso, dico la verità. E l'ultima cosa, io sono di centro-sinistra e questa volta qui, come tante altre, mi ha stancato, nel senso, come fanno, chiedono un emendamento, chiedono di Beltroni di far dimettere Cosentino, e poi nel momento clou, quando proprio bisogna dare una cosa così forte, un segnale così forte all'Italia, magari anche positivo, non si va a votare e non ci si presenta alla Camera. Mi domando io com'è possibile. Guardi, sul sito dell'Espresso lei può trovare i nomi, io non sono di quelli che pensano che Cosentino si debba dimettere, ho molti dubbi su questo, non ho una posizione, diciamo, chiara, sicura, non mi sono fatto ancora un'idea, devo leggere bene le carte e tutto. Però è sicuro che Beltroni ha detto è bene che si dimette, e poi al momento opportuno, quando si poteva fare un passo verso le dimissioni, non hanno partecipato al voto nonostante fossero presenti quel giorno in aula una serie di onorevoli diversi, 30 circa, di più forse, del Partito Democratico. C'erano gli assenti, tra cui Veltroni, Bersani, Colaninno, D'Alema, Lusetti, Melandri, Pistelli, Tuadì, Ventura, Gentiloni, Beltrandi, Furio Colombo, Cenni, Calvisi, eccetera eccetera. Si sono astenuti, addirittura erano presenti e si sono astenuti, Madia, Bernardini, La Forgia, Parisi, Cuperlo, Bachelet, Mantini, Maran, Boccia, eccetera eccetera. Tutti i nomi li può trovare sul sito dell'Espresso. La ringrazio. 19:42, Carlo da Roma. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Senta, io mi sento abbastanza indignata, devo dire la verità, indignato per la vicenda Battisti, in quanto ritengo che un paese che si dichiara amico dell'Italia non possa dire che in Italia si fa persecuzione politica, non possa consentire di ricevere a un condannato per omicidio lo status di rifugiato politico, perché sarebbe equivalente a dire che in Italia si fanno dei giudizi sommari, dei processi sommari, e penso che uno Stato che si ritiene nostro amico non possa dire che in Italia si faccia questo. Equivalrebbe quasi a dire che il Brasile ci viene a dare a noi della Repubblica delle Banane, insomma. Ritengo che l'Unione Europea, visto che l'Italia è uno Stato membro e si ritiene che abbia dei requisiti per essere membro, dovrebbe dire la sua su questo. Io credo che l'Italia dovrebbe attuare veramente una politica più seria, più rigorosa. Le parole di Berlusconi di oggi, le prime dopo diversi giorni, le sono piaciute oppure sono insufficienti? No, assolutamente. Io penso che come al solito si mettono davanti degli interessi economici. L'Italia vuole mantenere dei buoni rapporti economici col Brasile, probabilmente la bilancia delle esportazioni, il fatto che la Fiat, la Telecom abbiano grossissimi interessi in Brasile. Io ritengo che le aziende italiane hanno dei grossi interessi e si vuole mantenere buoni rapporti, ma io credo che in una situazione diversa, probabilmente con uno Stato, che ne so, africano, ci saremmo comportati in maniera diversa. Non credo che avremmo fatto questa inutile teatrino di dichiarazioni amichevoli quando ritengo che l'offesa sia molto grave, quella che è. Beh, io la penso come lei, e le ringrazio di questa telefonata. Un ascoltatore mi scrive: io non credo che lei sia fazioso, però quando Bossi parla di fucili dice che sono metafore. Io non ho mai detto che sono metafore, e anzi ho condannato fortissimamente Bossi, e l'olio di ricino di Di Pietro è una follia. Va bene, questo è un altro ascoltatore. Un altro ancora dice... ancora delle cose sull'audio, sul famoso audio di Pietro, ma insomma poi ritrovo questo messaggio. Andiamo a sentire Fabio da Roma. Buonasera. Pronto? Fabio, dica. Sì, finalmente, sono 2 ore che aspetto. Vabbè, succede, dica. Sì, senta, veloce, io volevo dire, a proposito di Battisti, che appunto, come diceva l'ascoltatore precedente, perché ovviamente l'Italia ha interessi economici e quindi questo è scandaloso, così come è scandaloso che esiste l'onorevole Paolo Cento che dice cose favorevoli a Battisti. Capisco che cosa è scandaloso, che ci siano rapporti economici tra Italia e Brasile non mi sembra che sia scandaloso. No, per la prima intendevo dire rapporti economici, è scandaloso appunto, cioè no, scandaloso di Paolo Cento che diceva parole favorevoli per quanto riguarda Battisti, quello scandaloso. Mentre per quanto riguardava gli interessi economici Italia-Brasile, appunto, che è normale che si spendano parole favorevoli in questo senso. Ecco, ricollegandomi all'ascoltatore di prima. Sì, ho capito perfettamente. Dunque, immagino che a lei l'intervento di Berlusconi di oggi non sia piaciuto. No, completamente. Io manco l'ho votato e manco lo voterò mai. Vabbè, adesso questo lasciamo perdere quello che lei ha votato. La ringrazio. Giancarlo Loquenzi, direttore dell'Occidentale.it. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, ci possono essere diverse interpretazioni dell'intervento di Berlusconi di oggi, diciamo che precedente ad alcune esternazioni, credo, del ministro della giustizia brasiliano, e precedente anche a quest'ultima sparata di Battisti, che dice: so i nomi degli assassini e sono i 4 miei compagni dei PAC, insomma, a tempo largamente scaduto. Ma a prescindere dalle parole di Battisti e dalle parole del ministro della giustizia brasiliano, che sono comunque gravi, l'Italia è rimasta agli anni di piombo, io ho l'impressione che Berlusconi sia intervenuto un po' per assopire e per fermare un'escalation che poteva diventare pericolosa. Però altri dicono: Berlusconi, a prescindere da quello che deciderà la settimana prossima la giustizia brasiliana, non vuole comunque compromettere i rapporti che sono intensi, commerciali, politici, industriali, tra l'Italia e il Brasile. La tua opinione qual è? Beh, io devo dire che in questi ultimi giorni, pur essendo io uno che con l'Occidentale ho sostenuto in tutti i modi possibili e immaginabili ogni azione del governo italiano per richiedere l'estradizione di Battisti, mi sono un po' preoccupato per il fatto che ho avuto l'impressione che la politica, i politici italiani si sono improvvisamente accorti che dare addosso al Brasile e alzare la voce per chiedere indietro Battisti era una cosa che pagava molto in termini di visibilità sulla stampa e di consenso, diciamo, nell'opinione pubblica. E dunque la partita, Italia-Brasile, eccetera. Sì, e quindi questo ha indotto un crescendo, a chi le sparava più grosse, e qui quindi si conquistava i titoli più fragorosi sui giornali, niente partita, espelliamo i viados brasiliani, boicottiamo il carnevale, cioè ogni ministro, non parlo di privati cittadini, ma ministri, insomma, uomini politici. Il lutto al braccio, Sì, che ogni giorno uno si inventava una ritorsione peggiore contro il Brasile per essere salutato come l'eroe, diciamo, del rientro di Battisti. Questo a me ha un po' preoccupato, perché mi sembra una china, diciamo, inefficace da un lato e pericolosa dall'altro. Inefficace perché nel momento in cui ancora la vicenda di Battisti è sub iudice, cioè ancora nelle mani, diciamo, della magistratura brasiliana, alzare i toni in questo modo non rasserena gli animi verso un giudizio distaccato. Dall'altro pericolosa perché gli interessi dell'Italia in Brasile sono tanti e l'interesse di avere indietro Battisti è sicuramente precipuo, ma probabilmente non è il primo della lista. Ci sono imprese italiane, ci sono lavoratori italiani, ci sono immigrati, ci sono grandi investimenti, insomma il rischio che in Brasile si crei un sentimento anti-italiano non serve a riavere indietro Battisti e non serve agli interessi italiani in Brasile. E qui dunque l'intervento, di qui secondo te l'intervento? Qui secondo me l'intervento di Berlusconi, che ha, diciamo, molto intuito e molto orecchio, diciamo, per i sentimenti popolari sia positivi che negativi, ha trovato opportuno, credo che nei rapporti tra nazioni questo sia necessario, abbassare un po' i toni e far capire che un conto è la battaglia politico-legale per riavere indietro Battisti, per ottenere la tradizione, un conto sono i rapporti tra storici, insomma, che vanno avanti da secoli tra l'Italia e il Brasile e che non possono essere dati alle fiamme in una sola settimana. Se questi rapporti poi dovranno ancora più, diciamo, deteriorarsi, lo si potrà decidere nei prossimi giorni, si potrà vedere, ma non si può tutto subito sacrificare sull'altare di questa battaglia legale. E questa è, diciamo, l'interpretazione, secondo me, anche corretta dell'intervento di Berlusconi di oggi. Volevo invece una tua valutazione sul fatto che, secondo un'interpretazione, secondo diverse fonti, Berlusconi considera tutto questo un po' un fastidio, cioè che in fondo della vicenda Battisti, nonostante il fatto che sia in gioco un po' la dignità nazionale, e le frasi continue da parte di questo ministro della giustizia un po' lo confermano, comunque Berlusconi lo consideri una grana e consideri invece più importanti, largamente più importanti, tutto quello che hai detto te, gli interessi, e lo sono poi in realtà, gli interessi economici, la presenza della Fiat, l'interscambio commerciale, eccetera eccetera. Ma appunto, io penso che non sono nella testa di Berlusconi, quindi non so capire quanto questa vicenda lo infastidisca. Guardando i fatti, diciamo, come spetta un cronista, mi sembra che il governo, e quindi metto Berlusconi responsabile di questo, si sia mosso con prontezza e con decisione in questa vicenda, ha fatto subito sapere il suo completo disaccordo rispetto alle decisioni brasiliane, ha chiamato indietro l'ambasciatore per colloqui, cosa che è una mossa, diciamo, che nell'etichetta diplomatica vuol dire molto, cioè non è una cosa che si fa normalmente, il ritiro dell'ambasciatore si fa in casi di guerra, quindi non siamo ancora a questo, però mi sembra che dalle posizioni di Palazzo Chigi, da quelle della Farnesina, da quelle del Ministero della Giustizia siano venute parole inequivoche di grande sdegno, di grandissima irritazione. Mettiamoci anche l'iniziativa del Presidente della Repubblica Napolitano, mi sembra che l'Italia in questa occasione, non si può rimproverare nulla. Poi ovviamente queste vicende si giudicano dal risultato. Riavremo Battisti, diciamo, nelle patrie galere? Potremmo giudicare in un modo. Tutto questo porterà invece a un fallimento di questa iniziativa, la giudicheremo in un altro. Un'ultima cosa, non c'è dubbio che vengono sia dalle parole di Battisti, che peraltro sono tutte da verificare, arrivano sempre più notizie sul coinvolgimento della Francia. Allora qualche ascoltatore mi faceva notare, bene, tutto questo, diciamo, tra virgolette, accanimento che c'è nei confronti del Brasile è giustificato secondo questo ascoltatore, secondo diversi ascoltatori in realtà non c'è nei confronti della Francia, anzi nelle parole del ministro Frattini c'è sempre un tentare di non coinvolgere anche la Francia in questa difficile situazione diplomatica, in questa crisi diplomatica che è in atto tra Italia e Brasile, è vero? Beh, questa sensazione, cioè, è evidente che i nostri rapporti con la Francia sono talmente interconnessi che portarli ad una tensione per la vicenda Battisti, se questo, diciamo, non è comprovato, rischia anche di essere molto pericoloso. È evidente però che la Francia una qualche colpa ce l'ha, e ci sono delle colpe, diciamo, di carattere politico e culturali. Io temo che anche è diffuso in Italia come in Francia, la destra ha sempre una forte, diciamo, un forte complesso di inferiorità rispetto alla sinistra. Questo si verifica anche addirittura nella Francia sarkozista, che invece dovrebbe aver ritrovato un minimo di, come dire, di sicurezza in se stessa. E credo che anche Sarkozy, anche i partiti di centrodestra del governo della Francia abbiano nei confronti della politica mitterrandiana, diciamo, dell'accoglienza rispetto agli eroi in qualche modo del 68 o addirittura anche ai terroristi, abbia un senso di soggezione, non voglia fino in fondo rompere quella tradizione. Ci si sente un po' legata, ci si sente un po' debitrice e non si sente culturalmente pronta a dire è stata tutta sbagliata, va interrotta e anzi va completamente capovolta e va cambiata quella politica. Grazie, buona serata Giancarlo Quenzi, direttore dell'Occidentale.it. Bruno da Vicenza, buonasera Bruno. Buonasera. Dica Bruno, mi scusi per il ritardo. Oh, si figuri. Ieri io la stavo ascoltando per via della, o l'altro ieri, non mi ricordo più, per via della faccenda di Di Pietro ha fatto una dimostrazione. Io non ho televisione da 3 anni, perciò io non so niente. Ascoltavo lei e sento questa cosa, perciò sono andato su YouTube e sono andato a guardarmi. Sì. Ho visto Di Pietro, ho visto Grillo, che si conosce Grillo. Ho visto Travaglio, che è un piacere ascoltarlo, come è un piacere ascoltare la Cafragna, che hanno due belle voci, però ho visto Borsellino, fratello di Borsellino. Sì. E questo mi è piaciuto. Ho ascoltato tutto il discorso di Borsellino e lui parlava di questo Genchi. E allora sono andato a vedere Genchi. E da Genchi lui parlava di De Magistri e sono passato a De Magistri. Perciò tutto ciò per ringraziarla, per darmi la possibilità di andare a scoprire come sono le faccende, veramente. Beh, questo è un po' troppo. Ho soltanto dato un'occhiatina. No, ma è un po' troppo, perché in realtà per conoscere le vicende, come lei dice, veramente bisogna passare molto tempo, naturalmente, a leggere, poi non si arriva mai ad una idea. Ad un'idea precisa, cose che al contrario sembrano avere i molti fan di Di Pietro che ci scrivono, o comunque persone che apprezzano Di Pietro, che danno l'impressione di essere dei depositari della verità. Lei non conosce la verità, ci apre gli occhi sulla verità, invece di fermarsi alla forma, vada alla sostanza e dunque a tutte le verità che dice. Sì, è facile pensare di essere depositari della verità. Io vivo nei dubbi, e molti di voi che ci ascoltano so che vivono nei dubbi, e così andiamo avanti, perché di dubbi si campa. La ringrazio moltissimo, Bruno, di questa telefonata. Massimo da Milano. E buonasera Cruciani. Io pronto? La sento, dica. Sì, no, mi scusi. Volevo ironizzare sul problema cosiddetto chiamato buco nero della Salerno-Reggio Calabria. È così da 20 anni, io mi ricordo che l'ho fatto qualcosa come 20 anni fa, era veramente terrificante. E rimasi sorpreso del fatto che da Salerno in poi non si paga più il casello. Quindi per cui mi domando chi è, qual è l'organo preposto alla manutenzione di codesta strada? Perché non si fa come in tutta Italia e nel resto del mondo, che se c'è un'autostrada ci sono i caselli, anche lì si dovrebbe pagare il casello. E si paga, dice lei. Beh, è uno dei problemi che sicuramente sono alla radice di quello che abbiamo chiamato il buco nero della Salerno-Reggio Calabria, che oggi è interrotta in due punti per le frane, naturalmente, ma è un'autostrada che ne ha passate di tutti i colori e continua a passare di tutti i colori. Certamente, oltre alla questione del tracciato iniziale, di cui parleremo adesso più avanti nella trasmissione con un ospite, c'è il problema, non c'è dubbio, del pedaggio e dunque di una difficoltà, diciamo, di finanziamento della ristrutturazione, che non è ancora terminata dopo più di 20 anni che si sono avviate le opere. La ringrazio, Massimo. Andiamo a sentire Giovanni dalla provincia di Salerno. Pronto, buonasera Cruciani. Dica. Senta, lei un attimo fa proprio diceva io vivo nei dubbi, ci sono parecchi ascoltatori che lo fanno, io sono uno di questi. Meno male. Meno male, e mi viene un forte dubbio, sto seguendo da giorni la vicenda Battisti, e vedo che sono tutti quanti convinti che sia cosa buona e giusta impiegare, secondo me sprecare tutte queste energie per riavere Battisti in Italia, buttarlo dentro, sperando che questa volta siamo pure più duri e gli facciamo fare 30 anni di galera senza farlo uscire prima. Però sinceramente non vedo a cosa serva tutto questo. Spesso si tira in ballo, quella è l'unica motivazione, i parenti delle vittime, non so strumentalmente o meno, perché a volte vorrei sentire che veramente loro lo chiedessero, che sono veramente meritano tutto il rispetto. No, mi scusi Giovanni, non capisco, lei dice a cosa serve tutto questo? Beh, a cosa serve? Mi perdoni, ci sono 4 sentenze passate in giudicato in cui che coinvolgono 4 omicidi, mi pare evidente a cosa serva. E poi dopo che il Brasile ha bollato Battisti come rifugiato politico, è una questione credo di dignità nazionale. Ci sono tante questioni che fanno sì che noi abbiamo aperto una campagna sulla vicenda Battisti. Dunque lei dice a cosa serve? Secondo me serve moltissimo. Sì, sì, mentre io la penso diversamente, e va bene. No, ma vorrei dire anche perché, se possibile, perché io penso che poi dopo, alla fine, la pena serva, come dire, a riabilitare il condannato. A dargli una possibilità di recupero. Ma va benissimo, ma che sia espiata in Italia, non so come dirle, insomma. Va benissimo, a me va benissimo tutto, la semilibertà, il perdono, il recupero in carcere, quello che vogliamo, però che si passi del tempo nelle carceri italiane, come hanno deciso alcune sentenze o no? No, questo è giustissimo, ma ci mancherebbe. Però allora, dico, solo questo. Tutta questa energia che stiamo mettendo in questa vicenda, e poi soprattutto sentendo gli interventi di molti ascoltatori, poi a me fa giungere ad una conclusione, ecco perché io vedo molto molto giustizialismo, molto ci stiamo incattivendo come popolo. Ma poi guardi, io veramente il giustizialismo in Italia ne vedo certamente, ma questa vicenda non ha niente a che fare col giustizialismo. Qui non è che si vuole andare a acchiappare una persona dopo 30 anni così per il gusto di andare ad acchiappare, ma per tutti i motivi di cui abbiamo parlato in questi giorni. La ringrazio, Giovanni. TG5, titoli. Caso Battisti, Berlusconi, non lasceremo nulla di intentato, ottimi i rapporti col Brasile. Lula, bene Berlusconi, l'Italia faccia ricorso, nuove dichiarazioni farneticanti di Battisti dal carcere. Il vescovo Lefebriano Williamson, che aveva sostenuto tesi negazioniste rispetto all'Olocausto, chiede pubblicamente scusa al Papa, le mie parole sono state imprudenti. Aperto l'anno giudiziario, Carbone, lo stato della giustizia è disastroso. Alfano, no alla gogna mediatica nei processi penali. Per la riforma ci vuole gioco di squadra. L'allarme di Maroni all'assemblea dell'UNICEF, anche in Italia traffico di organi di minori. Istituire una banca dati del DNA. Altra giornata di caos sulla Salerno-Reggio Calabria, i 60 chilometri chiusi per frana, forse riaperti nel fine settimana. Le mani delle cosche sui lavori iniziati nel 97 e non ancora terminati. I viaggi di nozze continuano ad andare a gonfie vele, affari per 5 miliardi l'anno. Le mete preferite: Polinesia, Kenya e a sorpresa la Nuova Caledonia. Allora, andiamo a sentire anche i titoli del TG1, poi altri dettagli sulla lettera di Battisti dal carcere diffusa dai suoi avvocati alla stampa, una lettera in cui si fanno i nomi, secondo Battisti, degli assassini e delle 4 persone per le quali è stato condannato, in realtà in particolare dell'episodio di Torreggiani. È un po' ambigua questa lettera, ma vi leggerò dopo alcuni stralci. TG1. Crolla il PIL americano, meno 3,8%, mai così male da 27 anni. Obama, la crisi, un disastro, continua a agire subito. Berlusconi su Battisti, faremo il possibile, ma col Brasile i rapporti restino eccellenti. Lula, siamo amici, decida la corte, il terrorista Torreggiani ferito dal padre. Anno giudiziario, il procuratore, processi più lenti che in Africa, intercettazioni essenziali, Alfano, fare squadra per la riforma. Olocausto, marcia indietro del vescovo Lefebriano negazionista, rammarico per i commenti imprudenti, nuova condanna del Vaticano. Traffico d'organi, Maroni, segnalazioni di casi anche in Italia, l'orrore riguarderebbe minori extracomunitari scomparsi nel nulla. Arriva anche in Italia la moda del parkour, uno sport estremo fatto di corsa, volteggi e salti spettacolari tra i tetti delle città. Allora, non sono responsabile per nessuna delle morti di cui sono accusato e so che il dolore che esse hanno causato è immenso ancora oggi, scrive Battisti in un passaggio della lettera scritta a mano in portoghese diffusa dai suoi avvocati. Dopo aver ribadito i principali punti della linea difensiva adottata dai suoi legali, Battisti afferma che è provata la responsabilità degli omicidi, specialmente quello del gioielliere Pierluigi Torregiani, del quale, scrive, sappiamo dalle autorità italiane che gli autori sono le seguenti persone: Memeo, Fatone, Masara e Grimaldi, tutti collaboratori di giustizia, pentiti, e che la pallottola che colpì il figlio del gioielliere Torregiani proveniva dalla pistola di suo padre. Effettivamente questo era abbastanza conosciuto. Per l'omicidio Torregiani, tra l'altro, viene condannato all'ergastolo anche Battisti, ma per aver ideato, non per la partecipazione diretta. I quattro chiamati in causa da Battisti sono Gabriele Grimaldi, Sebastiano Masara, Giuseppe Memeo e Sante Fatone, processati con lui per omicidi a banda armata. La persona che mi ha accusato è stata torturata, scrive Battisti, senza farne il nome. Nella lettera, l'ex membro dei proletari armati per il comunismo ringrazio lo sforzo del senatore Suplisi, della mia amica Fred Vargas e dei miei avvocati per avermi messo in contatto con la stampa. Spero che la mia situazione venga compresa e che io possa vivere in libertà con la mia famiglia gli ultimi anni della mia vita. In realtà, dunque, fa i nomi di quattro persone per la questione Torregiani. Non so se si riferisce anche agli altri, se anche gli altri, ma non può essere così, perché per gli altri ci sono altri nomi in ballo, per altri omicidi, quello di Santoro e gli altri due. Per quello di Torregiani invece fa i nomi di Memeo, Fatone, Masara e Grimaldi, personaggi che appartengono ormai al passato, che lui considera pentiti, collaboratori di giustizia, e che non facevano parte invece degli altri commando che hanno ucciso le tre persone, l'agente di polizia penitenziaria Santoro, un maresciallo della Digos e Sabadin. Andiamo a sentire la 7 con i suoi titoli. Barack Obama parla di disastro di fronte al crollo del PIL americano di quasi il 4% e chiede un'alleanza con i sindacati. In Italia, cassa integrazione ai massimi dal 2002 e l'Istat certifica un calo del 2,1% dell'occupazione nelle grandi imprese. Polemiche tra costruttori e governo sugli investimenti pubblici. Durante un convegno dell'UNICEF denuncia shock di Maroni, bimbi migranti in Italia usati nel traffico di organi, cautela tra le organizzazioni non governative, non ci risulta. Il Parlamento convoca il Ministro dell'Interno per conoscere i particolari della sua denuncia. Sì alle riforme ma senza scontri, dice il procuratore generale della Cassazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario e afferma le intercettazioni sono indispensabili alle inchieste sulle mafie. Il ministro Alfano va bene a lavorare insieme ma no a gogne mediatiche. 15 minuti di ritardo sull'inizio delle partite di A e B del fine settimana. Così l'associazione calciatori protesta contro la sentenza che ha squalificato per un anno i giocatori Mannini e Possanzini per aver fatto tardi a un... Bene, controllo. Fabio da Torino, buonasera Fabio. Buonasera Giuciani. Dica. Senta, ma io credo che la campagna che sta conducendo, o comunque il modo che ha per lo sbarramento, per denigrare i nanetti, insomma, per lo sbarramento alle europee del 4%, secondo me è di cattivo gusto, tradisce un po' di arroganza. Guardi, non stiamo facendo nessuna campagna, tant'è che abbiamo chiamato ieri uno dei cosiddetti nanetti, abbiamo scherzato con lui anche sulla parola nanetti e lui ha tranquillamente giocato con noi, che è il segretario dei socialisti Nencini. Per cui non c'è nessuna campagna. Naturalmente io sono favorevole allo sbarramento, ma questo è un altro discorso. Una campagna è quella su Battisti, sullo sbarramento non c'è nessuna campagna. Io non mi fermo naturalmente a quello, vorrei però farle osservare una cosa. Non è soltanto, per carità, lo è anche, molti di quei nanetti sicuramente pensano a se stessi in quanto classe dirigente, ma non è soltanto una questione di salvataggio di una classe dirigente. Penso che ci sia una questione di democrazia, penso che ci sia un diritto di cittadinanza per alcune tesi e penso anche che quando si sta dalla parte del più forte, specialmente per quanto riguarda i giornalisti, si sconti un po' il mettere da parte il proprio mestiere per poter servire meglio il proprio titolare. Tant'è vero a chi che si riferisce, mi perdoni, non ho capito bene. Per quanto riguarda... Perché se io servo qualcuno, lei mi deve dire chi servo, perché io mi sembra di non servire nessuno, però forse mi sbaglio. Ad esempio che la Marcegaglia è sotto inchiesta... Ma che c'entra la Marcegaglia con la legge elettorale, Fabio? Che c'entra la Marcegaglia con il Sole 24 Ore? Con la legge elettorale. Lei ha parlato di legge elettorale per le europee. Cosa c'entra questo? Se me lo fa dire, glielo dico. No, ma cosa c'entra la legge elettorale per le europee con le questioni che riguardano il presidente di Confindustria? Sto contestando che tratta cosa? La questione del sbarramento al 4% con poca onestà. Allora, le faccio osservare di nuovo. Ma Fabio, scusi un attimo, adesso un attimo solo, Fabio, perché non si vuole fermare un attimo che ho la pubblicità? Non le voglio togliere la parola. Come sa, non tolgo la parola a nessuno, tranne quando c'è la pubblicità. Allora, lei mi può parlare di quello che vuole. Lei mi dice, primo, se vuole, perché secondo lei non ci deve essere lo sbarramento, e secondo, cosa c'entra con questa questione la vicenda di cui voleva parlare. Non capisco le questioni della Marcegaglia, eccetera. Allora, elezioni europee, noi non stiamo facendo nessuna campagna, io personalmente sono favorevole allo sbarramento, addirittura l'avrei fatto più alto. Lei invece pensa che sia una questione di democrazia, Fabio, no? Certo. E allora? Mi dica perché? E allora? Ma allora io le contesto per il motivo che dicevo prima, siccome penso che ci siano ancora dei contenuti che debbano avere il diritto di cittadinanza, ritengo anche che mettere uno sbarramento per salvare la propria pellaccia, cioè Veltroni che è abbastanza in difficoltà, tra l'altro con mezzi discutibili, come dice oggi Fava sull'Unità, probabilmente l'affair Cosentino, quello che denunciava lei prima, la fuoriuscita dei deputati della Camera, probabilmente è collegato con lo scambio fatto con Berlusconi sul sbarramento al 4%, visto che Berlusconi non aveva questo interesse, avrebbe voluto averlo al 5% semmai per bloccare l'UDC. Ebbene, allora io credo che si va ad aggiungere ancora un'altra questione. Di quando dico campagna, perché lei naturalmente argomenta la sua tesi sullo sbarramento, perché lei è favorevole allo sbarramento, dicendo che in questo modo si diminuisce la frammentazione. Beh, mi sembra che sia una posizione legittima, come legittima la sua, naturalmente. No, ma per carità, ci mancherebbe. Allora. Volevo però farle osservare e far osservare un po' poi a tutti. Faccio che osservare. Al Parlamento europeo ci sono dei gruppi predefiniti, quindi questo problema non torna. Non c'è la questione di creare un governo. Della governabilità, dice lei. La governabilità. Io credo che questo problema per le europee non c'è. Anzi, no, ma Fabio, è un argomento forte questo qua a favore della legge elettorale col proporzionale puro. Diciamo che di contro si può dire che cosa? Primo, che ci sono altri paesi che hanno uno sbarramento e non se ne fa una questione di democrazia. Due, che è auspicabile per, secondo me naturalmente, per creare un sistema più semplice, che anche al Parlamento europeo i partiti non si moltiplichino, perché sa, l'effetto moltiplicatore poi si riversa dall'Europa all'Italia in maniera molto semplice, perché si mantengono i partiti, le sigle, e poi automaticamente si riversano anche in Italia. Insomma, mi sembra entrambe delle posizioni legittime, eccetera. Io non capisco cosa c'entra la questione della Marcegaglia, qui lei accennava prima, no? Mi spieghi, perché non capisco. Che la democrazia non è un'opinione, capisco che è anche una cosa difficile, e capisco anche che quando si sta dalla parte del più forte. E quale sarebbe la parte del più forte? Troppo sovente. Beh, insomma, parliamoci chiaro, la sua è la parte del più forte. La mia, la parte del più forte. La sua, certo. E per questo se che me lo dice lei, la questione democratica, perché lei non può fare una campagna tacendo determinati particolari, che poi sono particolari importantissimi, di una certa rilevanza, come quelli che dicevo prima, Ma guardi che ne abbiamo parlato ieri, ieri. La Marcegaglia è sotto inchiesa per... Ma che c'entra? Ma a parte niente. Che non è vero, ma che c'entra? Ma che c'entra? Certo, ma cosa c'entra? Cosa c'è? Ma se mai fosse vero, e non è vero, cosa c'entra con la questione delle elezioni europee? Questo è il discorso. Cosa c'entra? C'entra la sua onestà intellettuale. La mia onestà intellettuale. Va bene, d'accordo, d'accordo Fabio, la ringrazio. Secondo lei non sarei onesto intellettualmente, così? Sì, che vogliono fare i garantisti. Per carità, su. Per carità, che per il garantismo, chi se ne frega, che mica è... Sì, che lo facciano i piduisti, certo. Certo, i piduisti. E poi che ci mettiamo ancora? Forse ci possiamo indignare. E che ci mettiamo ancora dopo la P2? Certo. Che ci vogliamo mettere dopo la Marcegaglia, la P2? Che ci vogliamo mettere? Non so, i... Quelli che ha invitato lei sono sufficienti, Marcegaglia e P2. Quindi ah, beh, certo. Forti, i piduisti. Certo. E poi naturalmente io ero d'accordo. E poi lei, gli illuminati, non so, gli illuminati. Che vogliamo mettere? Gli illuminati. Le, non so, gli UFO, no. Gli UFO, di che vogliamo parlare? Fabio, guarda, io sono d'accordo con lei quando dice che la russa probabilmente vuole una rendita politica, e quindi ci sono anche ministri che si fanno passare sotto il naso, sono d'accordissimo, e fa passare legge ad personam, e quindi se vuole ci metto dentro anche la russa, quindi certo, perché no, tanto ormai non manca nessuno, e certo è il mio modo, infatti abbiamo... io lo sto esortando a essere a fare. Più onesto, ne farò tesoro di questa telefonata. Fabio, la ringrazio. Bene, riprendiamo alle 20:18 e andiamo a sentire tutti gli altri ascoltatori che sono in linea. Andiamo a Bergamo da Fabio, eccoci qui. Fabio, buonasera. Sì. Buonasera a lei, dottor Cruciani. Innanzitutto complimenti, è bravo, perché non poteva fare altro che fare quel mestiere lì. Fare quello che sta facendo lei non è facile, perché è in diretta a rispondere, e quindi le faccio i complimenti. Sì, alcune volte sono d'accordo, altre certo, no. Certo, è come è normale che sia. Però le faccio i complimenti. È bravo e non poteva fare altro che fare quel mestiere. No, no, ma io vorrei fare anche altro, non lo so, ma il punto è che il suo ascoltatore, il suo omonimo Fabio di prima, che rispetto, assolutissimamente, mette insieme un po' di cose, secondo me, in modo confuso, però poi ognuno fa i ragionamenti che fa. Francamente non si può nemmeno rispondere ad alcune cose, perché sono così un po' buttate lì, piduisti le cose, un po' generiche, gli aennini, faceva un miscuglio un po' di tutto, però succede, c'è anche questo, cosa vuole? Si parte un po' prevenuti forse, e meno forse sì, onesti, i servi, i padroni, queste robe qui, i servi, i padroni, bah. Il motivo del mio intervento era questo, per chiederle un parere, e non è facile da esprimere, in merito al discorso della giustizia. Ho sentito il dottor Alfano, che è intervenuto 2 o 3 giorni fa, dicendo appunto che la giustizia è lenta, così non va bene, ci sono degli errori macroscopici, e questo discorso esiste da 20 anni ormai. Allora volevo chiedere, non sarebbe il caso di fare una giustizia che abbia delle maglie magari un momentino più larghe, quindi sia meno giusta, tra virgolette questo termine, però sia più rapida, perché avere un codice civile, un codice penale bellissimo come noi abbiamo in Italia, e poi non viene applicato, e come non averlo? E per fare un po' un paragone, mi viene in mente un po' il pronto soccorso di un ospedale, dove io non posso mettere più medici perché non ho i soldi, ho una fila enorme di persone che vogliono andare a farsi curare, però i medici prescrivono una serie di visite che vanno a intasare. Forse converrebbe prendersi un po' più di responsabilità, far fare meno visite, però soddisfare questa coda enorme di attesa di persone in tempi più rapidi, magari essere un po' meno precisi, essere un po' più superficiali, però ottenere dei tempi più rapidi, perché è inutile intervenire perfettamente dopo 10 anni e avere i malati che muoiono, non possono essere, perché nel frattempo sono morti o sono andati altrove. Non so se mi sono espresso. Beh, insomma, l'esempio è abbastanza calzante. La ringrazio, Fabio, di questa telefonata. Andiamo a Reggio Calabria. Giovanni, buonasera. Sì, buonasera. Dica, abbassi la radio perché sennò non sentiamo nulla. Sì, scusi. Dica. Allora, niente, io volevo intervenire per quanto riguarda la Salerno-Reggio Calabria. Peraltro è da Reggio Calabria che lei ci chiama, per cui... Quindi, niente, io... Cosa sta succedendo? Si sente isolato? Isolati siamo sempre stati isolati. Qua a Reggio Calabria, nonostante abbiamo un aeroporto, nonostante abbiamo un porto, siamo stati sempre isolati, anche perché prendere aerei da qua è letteralmente impossibile, che come prezzi, come i treni, non ne parliamo, quanto impiegano ad arrivare a, verso le altre destinazioni. Cioè siamo in una situazione veramente catastrofica. Poi confermo che ancora piove, quindi smottamenti sicuramente ci saranno altri, perché non... Lei dice che al di là della questione contingente, della pioggia, degli smottamenti, eccetera, che pure è provocata anche da un'incuria del territorio, da una scarsa cura del territorio, lei dice c'è un problema che tutti conosciamo, ormai quasi ancestrale, diciamo, che si trascina da decenni, dei trasporti in Calabria e nel Mezzogiorno. Sì, i trasporti sono a livelli proprio da terzo mondo, non... E poi anche pure l'autostrada che stanno costruendo, la nuova autostrada. Sì. Secondo me, cioè la nuova, la vecchia, trova, cioè, no, non è la nuova, il tempo che trova. Che anche perché in altre parole dicono la terza corsia, ma non è che stanno facendo una terza corsia. No, un ampliamento, una corsia d'emergenza, un ampliamento dell'esistente, c'era. Certo. La ringrazio. Andiamo sempre a Reggio Calabria. Restiamo a Reggio Calabria. Gianni, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Mi ha, diciamo, un po' detto il radiofonista che ha telefonato prima. Sì. Qui praticamente siamo totalmente isolati dal mondo. Nel 2009 avere queste situazioni mi sembra una cosa incresciosa. Ancora di più l'assenza degli interventi politici, che proprio non si sentono intervenire su una questione che ci ha tagliato fuori dall'Italia. Cioè, per arrivare in Sicilia, io sono partito ora da Villa San Giovanni, per arrivare in Sicilia il trasporto su ruote è praticamente escluso. Un disastro completamente, cioè l'intervento solo di Bertolaso che è arrivato ieri con qualche parola di possibile fiducia, però sinceramente è molto molto molto deludente proprio l'intervento della politica. Ma guardi, adesso io non so, deludente l'intervento della politica, certamente ci sono dei fatti contingenti, piogge che hanno peggiorato la situazione, una scarsa cura del territorio intorno alla Salerno-Reggio Calabria, sono tutte questioni aperte. Quello che è sicuro è che si è riaperta la questione del buco nero della Salerno-Reggio Calabria per le piogge questa volta, ma c'è un problema di fondo, non c'è dubbio. Ne parliamo con Leandra D'Antone, che saluto anche se in treno. Buonasera. Buonasera. Eccoci qui, docente di storia contemporanea a Firenze, autrice di un libro. A Roma, è vero, a Roma, anche se abita a Firenze, vabbè. Autrice di un libro, Senza pedaggio, storia dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, editore Donzelli. Senza pedaggio, storia dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Allora, senza tornare alle vicende del come fu costruita, anche se fu costruita in tempi rapidi, ci sono stati problemi di tracciato, problemi politici, qualcuno ha sostenuto nel passato, magari poco ascoltato, in realtà bisognerebbe rifarla tutta invece di allargarla, è così? Credo che l'abbiano sostenuto anche di recente, non sarebbe stata una scelta sbagliata. Del resto, quello che è accaduto, sentivo che parlavate di piogge, piovosità, è vero, cioè è franata la montagna sull'autostrada, non l'autostrada, così come a Scilla è franata una strada statale sull'autostrada. Il problema è stato proprio quello di averla fatta lì in mezzo alle montagne, che è una follia, essendo perfettamente consapevole, questa fu essenzialmente una decisione politica e tecnica che non si può addebitare a chi ebbe il compito di eseguire l'opera, certo. Cosa che fece bene, però sapendo che si andava incontro a tutti questi guai, anche perché era noto ed è noto che il terreno della Calabria è franosissimo. E dunque c'è sempre stato un punto che non è stato possibile completare, proprio per queste ragioni, per la franosità del terreno. La cosa sconvolgente oggi è che episodi di questo genere mettono di fronte a noi la realtà incredibile del fatto che la Salerno-Reggio Calabria è l'unica grande opera di trasportistica prevista realmente per il sud, da Salerno in giù, non c'è altro. Quindi, cioè, il rifacimento, lei dice, il rifacimento di questa autostrada è l'unica grande opera prevista. L'unica grande opera prevista è il rifacimento di questa autostrada, non c'è altro. Questo però non è dovuto soltanto ai politici. Ho sentito l'intervento del signore che mi ha preceduta, Questo è dovuto anche a un vuoto di progettualità che è drammatico, perché recentemente sono stati predisposti tutti gli strumenti, sia finanziari che, diciamo, di decisione, che decisionali, compresa la disponibilità dei fondi strutturali, per riuscire a realizzare in tempi rapidi delle cose, ma mancano i progetti non sono maturi. Quello che abbiamo è il rifacimento della Salerno-Reggio Calabria, su cui stanno lavorando le più grandi imprese italiane e persino i centri di ricerca di prestigiose università come la Bocconi. Quindi a questo punto mi viene di dire, ma insomma, a noi meridionali, ma allora ce la vogliamo? Al di là del fatto che altri fanno opportunamente i loro interessi territoriali, certo, quindi non gliene frega nulla del sud. Un'altra domanda è questa: un ascoltatore prima mi faceva notare, ma è vero che in Europa ci sono anche modelli di autostrade che non si pagano, vediamo in Germania, però forse tra i difetti iniziali di questa autostrada c'è stato anche la questione del pedaggio, no? Certo, assolutamente sì, il problema in Italia si è posto esattamente in questi termini, cioè le autostrade a pedaggio che sono state costruite tutte dall'IRI nell'ambito di un sistema di rete, ovvero della società Autostrade, erano diverse da quelle senza pedaggio non per il non pedaggio, ma per le caratteristiche tecniche. Quindi mentre quelle autostrade sono state costruite dentro un sistema di rete, ma soprattutto con delle caratteristiche che le qualificano come autostrade, la Salerno-Reggio Calabria è stata fatta senza pedaggio, con le caratteristiche di una strada super veloce. Insomma, in Italia le autostrade senza pedaggio affidate all'ANAS a totale carico dello Stato sono state costruite con caratteristiche che si sono rivelate nel tempo non autostradali, tant'è vero che è stato necessario adeguare l'autostrada attualmente esistente. Intorno all'adeguamento sicuramente c'è stata una discussione, posso permettermi di dire, anche all'interno dell'ANAS, sull'opportunità di migliorare questa autostrada e adeguarla ai canoni delle vere autostrade, alle caratteristiche tecniche, oppure farla completamente nuova. Forse sarebbe stato meglio. La Tirrenica, e sarebbe stato meglio, meno costoso e forse meno rischioso, anche perché sappiamo i gravissimi problemi che stanno ponendo questi cantieri, anche per via di una della criminalità, diciamo, organizzata. Di un'illegalità ormai, certo, molto, ma molto diversa, cosa che non era quando fu costruita l'autostrada. Bene, grazie a Leandro D'Antone. Alberto Torreggiani, figlio di Pierluigi Torreggiani, gioielliere ucciso nel 79 dai PAC, i proletari armati per il comunismo, risponde a Battisti. Non dice nulla di nuovo, e infatti mi sembrava che la questione della pistola del padre, che avrebbe un colpo partito naturalmente per sbaglio, che ha provocato il ferimento di Alberto, era già nota, è tutto negli atti processuali. Lui non c'era perché era andato a Mestre, lui Battisti, a uccidere Sabbadini, il macellaio mestrino ammazzato dai PAC. Il problema è che esiste una sentenza di condanna definitiva e ci sono delle testimonianze che lo indicano, lui e i suoi coimputati, come responsabili dell'omicidio di mio padre. TG2 titoli. Caso Battisti, il presidente brasiliano Lula dice: bene Berlusconi, giusto che l'Italia segua la via giuridica. Il terrorista si dichiara innocente e scrive: a uccidere furono i miei compagni. Nell'ultimo trimestre 2008 l'economia americana arretra di quasi 4 punti, non succedeva da 27 anni. Il presidente Obama: bisogna agire subito, in Italia aumenta la cassa integrazione. Un'azienda inglese chiama dall'Italia operai specializzati, protestano le tute blu anglosassoni, gli italiani ci rubano il lavoro e chiedono che quei posti siano assegnati agli inglesi. Traffico d'organi da minori, allarme del ministro dell'interno Maroni all'assemblea dell'UNICEF, tracce anche in Italia, dati preoccupanti sui bambini extracomunitari scomparsi. Il vescovo negazionista Leferriano chiede scusa al Papa sulla Shoah, frasi imprudenti. Il Vaticano: chi nega l'Olocausto ignora anche la croce di Cristo. Bene, andiamo a sentire da Cosenza. Carlo, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Niente, volevo intervenire sulla questione Salerno-Reggio. So che sono stati altri interventi, tra cui quello della dottoressa docente universitaria, per cui sì, è stato sviscerato abbastanza bene l'argomento, ecco, per cui era più che altro uno sfogo e un modo per farci da sentire Cosentino, in radio, insomma. Sì, certo, per farci sentire in radio e cercare un po' di capire quali sono state le ragioni per cui si è arrivato a questo punto, senza voler però cadere nel qualunquismo oppure nel moralismo o tutte queste cose brutte che e dunque? Tante volte ci caratterizzano. E dunque cosa ci voleva dire? E dunque volevo dire questo, volevo dire che noi siamo comunque in questa situazione da purtroppo da un po' di tempo, che mi viene difficile comunque non pensare alle responsabilità politiche nonostante il mio sforzo, nel senso che anche come diceva la dottoressa è stata progettata sin dall'inizio questa autostrada in maniera, pur sapendo che si passava attraverso le montagne e quindi si andava incontro a dei problemi di questo tipo, per cui di frane eccetera, e poi continuando anche con il nuovo ampliamento non si è deciso di farla sul Tirreno, comunque sulla costa, ma si è deciso di quindi comunque ci sono stati almeno due errori. La famosa variante Mancini per la sua città, per Cosenza. La famosa variante Mancini, esatto, per la sua città, che è Cosenza. Sì. Le parole di Torreggiani, mi sembra, Sky TG24, sentiamo. Sulle notizie non c'è nulla da dire di nuovo, perché alla fine quello che gli sta dichiarando io l'ho dichiarato da ormai 4 anni, dalla prima volta in cui mi è stato chiesto come erano successi i fatti. Per cui non vedo per quale motivo lui adesso esca con questa nuova notizia. Dunque, niente di nuovo ci sta dicendo, perché Battisti in alcune interviste delle settimane scorse ha parlato spesso di una corrispondenza tra di voi. Ha detto che si era quasi instaurato, che comunque tra voi in qualche modo vi eravate capiti, che si era instaurato un certo tipo di rapporto. Beh, come dire... Va bene, queste sono le parole di Torreggiani, che ieri era nostro ospite. Prego Carlo, concluda. Niente, solamente questo sfogo, se possibile. La ringrazio per questo spazio che dà a me e ai calabresi, e la speranza, ecco, magari una spinta ai politici di far meglio per la loro terra, visto che ci vivono pure loro. Mi scusi se... va bene naturalmente, perché a meno, ecco, sentirsi isolati naturalmente non è bello. La ringrazio. Pasquale Catanzaro, buonasera. Buonasera, senta, io volevo intervenire, ho ascoltato finora, io chiamo da Catanzaro, Calabria, ovviamente per la Salerno Reggio Calabria. Sì. Niente, io volevo dire che intanto il problema dell'autostrada che non andava fatta dove è stata fatta, credo che sia una cosa su cui ormai si marcia, ogni qualvolta c'è qualche problema sulla Salerno Reggio Calabria. Io non ho mai sentito dire che l'autostrada del Sole che collega Bologna con Firenze dovesse essere fatta altrove. Sì, no, ma Pasquale, la vicenda è ormai superata, questa qua. Ormai no, è ormai superata, però no, mi scusi, mi faccio dire, è ormai superata, ma è un modo ogni volta per distogliere il problema dalla posizione reale. Il problema non è che l'autostrada va spostata, il problema è che l'autostrada va finita, va ultimata, e per ultimarla bisogna che lo Stato, perché è un lavoro statale, la smetta di parlare di 'ndrangheta e di mafia, perché se ad oggi lo Stato non è in grado di gestire un'autostrada, un lavoro pubblico statale contro tutte le infiltrazioni mafiose, allora noi che siamo diciamo sempre a contatto con enti regionali e comunali che hanno molta meno forza, allora alziamo bandiera bianca. No, ma lei ha perfettamente ragione su questo, Pasquale. Naturalmente si fa anche un ragionamento storico, no? Oltre che un ragionamento contingente. Lei ha perfettamente ragione, lo Stato ha grandissime responsabilità perché non riesce a ultimare, non solo per i problemi con la criminalità organizzata, ma anche per questioni di fondi, eccetera, la Salerno-Reggio Calabria. Dei passi avanti si sono fatti negli ultimi anni. Vuole concludere rapidamente, Pasquale? Sì, no, consideri tra le altre cose che ci sono tratti di autostrada ancora mai iniziate. Poi volevo rispondere alla professoressa che ha parlato prima. Sì. Non è assolutamente vero che sia l'unico lavoro che c'è in Calabria di viabilità. Non ha detto questo, la professoressa D'Antona ha detto di grande viabilità, diciamo, di grande opera infrastrutturale. Di grande viabilità. C'è la Ionica, la 106. La 106 Ionica, certo. In alcuni tratti a 4 corsie, che se fosse ultimata insieme con l'autostrada Salerno-Reggio andrebbe a completare un sistema viario e di eccellenza, quindi finiamola col dire che non ci sono i lavori, che lì finissero e lo Stato si prendesse le responsabilità, ivi compreso Bertolaso, che non può arrivare e dire e cadere dalle nuvole, perché che piovesse per un mese, ci sono, lo spremano, perché per questo serve la protezione civile. Se no, Beh, oddio, alcune cose in giro. No, ma Pasquale, mi è piaciuto il suo intervento, per carità, la statale ionica 106, i lavori devono essere completati assolutamente, che addirittura poi ci sia una viabilità all'eccellenza una volta completate queste due cose non credo che sia così, però mi sembra un intervento molto corretto e la ringrazio Pasquale. Francesco da Perugia. Salve, buonasera. Volevo fare alcune considerazioni relativamente al caso Battisti. Personalmente non condivido la linea che è stata portata avanti dal nostro paese finora, perché la ritengo poco costruttiva. In questo senso ritengo che anche la lettera del nostro presidente Napolitano al suo omologo Lula sia stata poco utile e anzi controproducente, direi. Perché? Ma io ritengo questo, cioè che cosa ci aspettavamo? Che una volta ricevuta la lettera Lula ci dicesse sì, ecco Battisti prendetevelo se lo volete? No, a questo punto no, una volta che a questo punto entrambi i paesi tengono il punto, e in primo luogo il Brasile. In secondo luogo adesso sento dire dai titoli del TG2, se non sbaglio, che Berlusconi sì. Proporrebbe di seguire la via giuridica. Questo si sarebbe dovuto fare da subito, a mio modo di vedere. Il rischio è che adesso la frittata sia già stata fatta, in quanto qualsiasi giudice brasiliano che si trovasse a decidere sulla questione si sentirebbe, gioco forza, sotto i riflettori e quindi non libero di decidere in maniera serena. Lei dice che la lettera di Napolitano, le dichiarazioni dei ministri italiani, alcune iniziative del governo... hanno pubbliche anche, hanno creato una situazione per cui nessun giudice brasiliano adesso prenderebbe una decisione che potrebbe essere interpretata come anti-brasiliana. Esattamente. Guardi, non lo so, Francesco, può darsi che sia così. Io credo che a un certo punto Napolitano sia intervenuto perché era in gioco la questione della dignità nazionale per alcune espressioni usate dal ministro della giustizia. Lei dice la cosa doveva essere gestita più sotto traccia, no? Più che in, io ritengo questo, più che in modo plateale. Partendo dall'ipotesi, se mi consente, della prego. Quale non sono sicuro affatto, che il fine ultimo sia quello di riaverlo Battisti. Cioè lei dice non è sicuro che l'Italia davvero lo voglia, insomma. No, io personalmente no, però... Però è una, mi è piaciuta questa sua interpretazione, questo suo tentativo di spiegare quello che sta succedendo, perché naturalmente ci sono diverse cose da spiegare e da capire ancora. Sempre Sky TG24 su maltempo in Calabria, in viaggio tra frane e smottamenti. Al momento la situazione qui qual è? Non c'è pericolo, è stabile. La pioggia continua, potrebbe però creare nuovi problemi. Scilla è isolata, altre frane ne impediscono l'accesso anche da nord, ma sono tanti i comuni calabresi in queste condizioni. Gli automobilisti sono dunque costretti a un giro lunghissimo da Reggio attraverso la statale 106 Ionica fino a Gioiosa e da qui lungo la Ionio Tirreno fino a Rosarno e viceversa. Oltre 2 ore per percorrere un tratto che normalmente sarebbe di 50 chilometri. Una situazione simile la si rischia nel Cosentino. Anche qui il traffico è deviato dalla A3, chiusa tra Cosenza e Falerna, alla statale 18. E anche qui, su questo percorso alternativo, frane, smottamenti e cedimenti della strada. Questa è la situazione certamente drammatica. Luca da Milano, velocemente, perché abbiamo due interventi e li voglio fare tutti e due, con Luca e con Luigi dalla provincia di Vicenza. Luca, un flash. Sì, buonasera. Mi riferisco allo sbarramento per le europee. Sì. Credo che in un momento come questo di disastro economico, perché ormai è chiaro a tutti che è un disastro, causato da 15 anni di malgoverno di entrambe le fazioni. Sì, lei dice. Su diversi punti. Sì. Togliere anche la possibilità di avere nuove forze, eliminandoli con questo sbarramento, mi sembra una cosa veramente inopportuna. Vabbè, cioè, Luca. Se gli si fa blindare nel loro palazzo quello che ci hanno combinato, lasciare in mano al pallino del disastro e invece permettere che partiti dell'1% entrino al Parlamento europeo è la salvezza del mondo. Vabbè, Luca, peggio di così non si può fare. Ah beh, certo, invece un Parlamento europeo in cui sono rappresentati 15 partiti in Italia va benissimo. No, è per capire. La ringrazio Luca. Luigi dalla provincia di Vicenza, devo andare velocemente Luca, se vuole naturalmente ne parliamo meglio lunedì. Luigi, 30 secondi. Sì, buonasera dottor Cruciani, la ringrazio innanzitutto l'opportunità che mi sta dando. E io volevo parlare dell'argomento di T-Red. Ah, è un argomento fantastico quello di T-Red, sì, è anche diciamo drammatico tra virgolette per chi è incappato in questi T-Red. Luigi, bravissimo. Facciamo così, la richiamiamo Lei è, io leggo qua, fa parte del comitato dei cittadini che hanno lottato per le multe. Multavilla, sì. E allora lunedì ne parliamo. La richiamiamo noi, la ringrazio, ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao.